contare solo quelli finiti bene, per non avere da pensare a nient'altro se non al mare. Torneranno tutte le genti che non hanno voluto parlare, scenderanno giù dai monti ed allora staremo a sentire quelle storie da cortile che facevano annoiare, ma che adesso sono aria buona pure da mangiare. Tornerai anche tu tra gli altri e mi sentirò impazzire, tornerai e ti avrò davanti, spero solo di non svenire, mentre torni non voltarti che non voglio più sparire, ne ricordo nei miei giorni, resta fino all'imbrunire. Per gli errori dei potenti, fatti senza esitazione, senza lividi sui volti, con un taglio sopra il cuore, prendi un ago e siamo pronti a ricucire. Tornerai tu in mezzo agli altri e sarà come impazzire, tornerai ti avrò davanti, spero solo di non svenire, mentre torni non voltarti, che non voglio più sparire, ne ricordo dei miei giorni, resta fino all'imbrunire. Tornerai tu in mezzo agli altri e sarà come morire, tornerai ti avrò davanti, spero solo di non svenire, mentre torni non voltarti, che non voglio più sparire, ne ricordo dei miei giorni, resta fino all'imbrunire. Torneranno anche gli uccelli, ci diranno come volare, per raggiungere orizzonti più lontani al di là del mare.